Io credo che Un Breakfast ha portato delle opportunità diverse. Sono nati in Un Breakfast 6 piccole imprese, da soci che non si conoscevano, si sono conosciuti e hanno deciso di mettersi in proprio e fare delle cose insieme. Un Breakfast ha aiutato molte persone, ne sono certa, ad acquisire più sicurezza, più consapevolezza delle proprie capacità. Il rapporto che c'è tra i soci è proprio lo stesso rapporto che c'è tra i colleghi, cioè non sono persone che sono caratterialmente affini e molto simili, cioè non è un gruppo di amici, non si stanno tutti simpatici. Però si è tutti insieme a lavorare per un obiettivo comune che è quello di ricollocarsi reciprocamente. Devo dire che anche per la mia storia personale Un Breakfast è stato importante perché mi ha iniziato a far muovere anche nei rapporti con le altre persone con una fluidità, con una serenità diversa. Cioè il fatto di vedere delle persone che stanno vivendo la tua stessa esperienza e di non sentirti solo dà molta forza.